Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, ci siamo! Eccoci qua in questo 5 aprile 2016. Dove i santi sono innanzitutto San Vincenzo Ferrer, che non ha a che fare né con la Nutella né con il Manzoni, ma era un domenicano spagnolo, quindi d'accordo. Dopodiché la santa con il nome più strano di oggi è Santa Ferbuta. Ferbuta, non mi è mai capitato di conoscere una Ferbuta, ma anche c'è santa a me. E poi San Geraldo, c'è una Santa Caterina Thomas, Santa Alberto di Montecorvino, insomma per il resto sono santi abbastanza ordinari. Tra l'almanacco del giorno, tra i nati, Simone Inzaghi, neo allenatore della Lazio, che è nato e nasce nel 1976, qui fa 40 anni e diventa allenatore. E Enzo Cannavale, che io ricordo quando ero giovane come un'espressione, diciamo, di una comicità un po' pesante. Bombolo e Cannavale. Esattamente. Anche Gregory Peck, ma io ricordo Cannavale. Tu ricordi Cannavale? Beh, proprio distrutto anni di per gli amanti del cinema. No, vabbè, ovviamente Gregory Peck non si discute. Tra le altre cose, la stampa ci ricorda che oggi è il giorno dedicato, secondo alcuni, a tentare di vivere senza la moneta. Cioè è vero. Il cashless day. Esatto, un giorno senza moneta. Che è una maniera, naturalmente, per pagare con il denaro tracciabile, virgola, ci collega ai Panama Papers, perché lì invece di tracciabile c'è poco, eccetera, eccetera. Ma guardate che di Panama Papers, oggi ci sono tante notizie molto interessanti. Beh, i Panama Papers, se volete, perché io qua, Oscar, lo devo tenere, quando ho letto l'Agenzia delle Entrate, vogliamo sapere tutti coloro che sono nella lista dei Panama Papers. Anzi, com'è che ha detto il sottosegretario Zanetti? No, il sottosegretario Zanetti, chi è in quella lista? Passerà dei giorni di tribolazione. Cioè, dicendo, chi non ha usufruito della finestra per mettere in regola il patrimonio all'estero, la valuta di discorso. Ed è irregolare, perché si possono anche avere, se denunciati regolarmente, passerà giorni di meritata tribolazione. Ha aggiunto anche con grande soddisfazione di noi contribuenti onesti, aggiunge lui. Io ti dirò la verità. Cioè, io preferisco classi dirigenti che combattano apertamente le tasse rapinose, ladronesche, che sono costretti a pagare nei paesi dove però le pagano, a quelle che invece tacciono ed evadono. Io preferisco i primi, mi metto tra i primi. Io non sono una classe di dirigenti, sono niente, però io sono costretto a essere rapinato da questo Stato, pago qua, però combatto apertamente. Ecco, chi invece mette fuori obbliga me a sentirmi la predica. No, ma d'accordo, però allora non sono due cose distinte. Cioè, tu puoi portare avanti giustamente la tua battaglia, però un sottosegretario che dice: se ci sono dei contribuenti disonesti che ha messo soldi a Panama passeranno giorni tribolati. Detto questo, perdonatemi, però, perché a me Assange, tutte queste cose mi fanno ridere. I documenti dove sono? I documenti sono in mano a questo consorzio. Poi c'è una lista che ci è stata data da giornalisti che avrebbero fatto un'inchiesta. No, sono dei destinatari di un leak elettronico, questi giornalisti. Non c'è nessuna inchiesta, perdonatemi, perché bisogna essere anche un po' meno demagogici. Dicono che hanno fatto un anno d'inchiesta. All'anno d'inchiesta. E i documenti dove sono? Non c'è una sola parola per il momento. C'è una lista di persone. Vediamo. Che hanno ci dicono che ci sono terabyte di dati, eccetera, eccetera. Vedremo. Vedremo anche, se volete chiamarci su questo 800 24 00 24, la questione delle pensioni, perché avremo alle 8:40 Filippo Taddei, responsabile economico del PD. Cioè, allora, io non ho capito, ma accettate, cari amici italiani, questo eventuale contributo dalle pensioni più alte per aiutare i giovani o no? E la risposta corale è no. No, no, la risposta no. Più corale è chi ha la pensione no. Un giovane dice sì. Ecco, esatto. Beh, e quindi tutto come prima, todos caballeros. Esatto, tutto uguale. Ma da che cosa vogliamo iniziare? Insomma, la notizia del giorno. Dai, potenza del giorno. No. Renzi che attacca la magistratura, un grande classico. Ecco, dai tempi di Craxi, poi Berlusconi, adesso tocca a Renzi. Dai, il Corriere della Sera ci apre, tutti i giornali ci aprono. Lì è singolare perché tutti i giornali dicono attacca i magistrati. Lui ha detto non li ho attaccati, ma ho detto semplicemente fate in fretta, fate le indagini, no? Se, vogliamo sentirlo Renzi, sì, quando non evocare il mitico fate presto, no, per carità, no, è il fate in fretta le indagini. Renzi dice questo. Sentiamo. sono 8 anni, no, che vanno avanti le indagini e non si cava niente. Ce l'abbiamo? No, tra un attimo. Vabbè, comunque Renzi alla direzione del PD dice questa cosa. Insomma, forse è l'interpretazione più vicina al renzismo, la dal Messaggero, che dice Renzi vede un disegno organico, ma non vuole attaccare le toghe. In realtà le attacca. Ecco, è il solito giochetto della politica. Non so, sentiamo. Le indagini sul petrolio in Basilicata ci sono più o meno quando le Olimpiadi, nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Ci sono stati arrestati, è ora 2016, è saltato il 2012, ma non so perché. Ci sono state più di una indagine, non si è mai arrivati a sentenza. C'è da dire che proprio ieri era male, perché sì, avrebbe proprio dovuto sapere quando parlava che la sentenza su Lollio di Viggiano, per un'inchia indagine di Butco, una di queste grado, appunto, primo grado, ecco, una di queste, però arrivava prima che lui parlasse. Sì, 8 anni, ci sono voluti 8 anni. Però, ma io mica figurati se difendo l'indagine di Butco, poi io di solito le critico più che difenderle. Detto questo, però dici proprio attacca i magistrati, questa è la linea. Ripeto, i giornali più vicini a lui dicono vede un disegno organico, ma non vuole attaccare le toghe. Di fatto è l'argomento ha una sua forza nel dire io volevo accelerare le opere, benissimo. Quello che i giornali non notano è che se il segretario del PD avesse fatto il dibattito aperto sulla questione energetica un anno fa nel PD, noi ci evitavamo il referendum e la marcia indietro alla legge di stabilità, visto che aveva la maggioranza. Il segretario del PD non l'ha voluta fare questa discussione. Quando i presidenti di regioni del PD del Sud hanno iniziato a dire guardate che noi al governo che stabilisce unilateralmente di riaprire le trivellazioni senza sentirci, col testo della Costituzione deve ancora sentirci, non siamo d'accordo, Renzi si è voltato alla parte opposta. Adesso ha dovuto far marcia indietro lui, ci becchiamo il referendum e ci becchiamo le indagini. Quindi sai, i giornali questa storia della marcia indietro di Renzi perché non ha voluto discutere nel suo partito non la raccontano, secondo me. Tra l'altro, caro Oscar, ci sta ascoltando una persona che da tutta questa vicenda sicuramente qualcosa nella vita ha pagato dal punto di vista professionale. Si chiama Giuseppe Di Bello, è con noi. Buongiorno Giuseppe Di Bello e ben ritrovato. Buongiorno. Anzi, buongiorno, dovremmo dire tenente Giuseppe Di Bello, no? Tenente, sì, della Polizia Provinciale. Sì, buongiorno. Tenente della Polizia Provinciale, però il giornale ha raccontato la sua storia. Cioè, in realtà lei adesso cosa fa? Dunque, sono da 6 anni in un museo e non faccio quello per cui ho vinto un concorso pubblico e per cui mi pagano, perché tolto i primi 2 mesi nel 2010 della sospensione, poi l'obbligo di altri 2 mesi di ferie, sono stato relegato in questo museo a fare qualche cosa che è completamente diversa da quella per cui venne assunto tanti anni fa. Cioè è stato messo in un museo, parliamoci, adesso ci racconterà perché è stato dato fastidio, insomma ha fatto qualcosa. Ho dato fastidio, cioè durante dei giorni di ferie con i miei soldi e soldi di associazione cittadini ho fatto i campionamenti e poi le analisi di acque destinate ad uso umano e potabile sia per la Basilicata ma soprattutto per 3 milioni di pugliesi e una parte di Campania. Cioè lei ho reso pubbliche queste notizie e praticamente sono stato denunciato dall'assessore regionale all'ambiente per rivelazione di segreto d'ufficio. Beh, anche procurato allarme, credo. Inizialmente era procurato Ma perché allarme. Lei ha fatto queste analisi da solo e non si è riferito agli organismi che sono preposti della regione, Agenzia regionale dell'ambiente? Guardi, la risposta sta proprio in quello che poi è accaduto successivamente, però io già conoscevo. Sarebbe a dire che i dati che venivano forniti dall'ARPAB non erano attendibili, tant'è che l'anno successivo il direttore generale dell'ARPAB di Basilicata veniva arrestato perché teneva nella cassaforte dei dati di inquinanti relativi per esempio al termodistruttore Fenice di San Nicola di Melfi, che c'è un processo ancora in corso per disastro ambientale. E siccome puntualmente quando mi riferivo a loro mi diceva che era tutto a posto, ho voluto vederci chiaro. Parliamoci chiaro, Di Bello, lei ho fatto delle analisi, non mi sono rivolto alle autorità regionali ufficiali, le ha fatte diciamo di suo pugno per dimostrare che secondo lei da queste analisi che cosa si evince, che le acque sono inquinate? Che c'erano e ci sono idrocarburi, metalli pesanti riferibili a fanghi di attività di trivellazione ed estrazione petrolifera e anche alogenati e clorurati cancerogeni, per cui diciamo c'era la prova materiale di quello che poi dopo 6 anni ha detto il procuratore nazionale antimafia. E per queste cose lei è stato diciamo così dirottato, denunciato messo in un museo. Adesso non dico, esatto, non dico a far niente, perché non voglio diciamo svilire quello che fa adesso lei, perché ci vuole anche una persona in un museo, però non è proprio quello per cui lei ha studiato e ha vinto un concorso. Assolutamente. Insomma, però diciamo che tutto ciò che è emerso in questi giorni corrisponde esattamente a quello che per anni abbiamo denunciato, perché io poi non mi sono mai fermato dal continuare a fare analisi. E purtroppo uno degli aspetti che è stato sottolineato da questa inchiesta, che non è che sono dovuti ad incidenti che loro chiamano eventi, che pure ci sono stati, ma il grosso dell'inquinamento è stato dovuto al fatto che hanno fatto risparmiare e hanno trasformato i codici CER, catalogo europeo dei rifiuti, da pericolosi a non pericolosi, e quindi questi rifiuti poi si sono ritrovati nelle acque di falda e sui terreni perché ritenuti non pericolosi. Però Oscar, se ascoltiamo insomma la storia di Bello, racconterebbe di una persona che ha scoperto alcune cose e per questo è stata, come dire... allontanata, estromessa, denunciata. La storia del poliziotto provinciale di Bello ci racconta il motivo della sentenza di ieri, sia pur di primo grado, perché la sentenza di ieri nasce per il fatto che i periti della procura, che avvia l'indagine sulle tecniche usate al centro Ole di Viggiano, rilevano dati sugli effetti delle procedure usate per il trattamento dei residui da estrazione completamente diverse da quelle dichiarate dall'ENI. Oggi sui giornali italiani c'è la discrepanza è tale che i periti della procura dicono no, veramente qua ci sono violazioni 208 giorni l'anno rispetto a voi che dite 20 come ordine di grandezza, 20 volte inferiore a quello dei dati dell'ENI. Allora questo problema c'è in Italia, come si fa ad avere dati attendibili, visto che la faccenda dell'ILVA nasce con una contestazione dei dati dell'Agenzia Regionale Pugliese, il caso di cui stiamo parlando con Giuseppe Di Bello che è collegato con noi nasce dalla contestazione diretta dei dati rilevati dall'Agenzia Regionale della Basilicata. Cioè la questione qual è? È che quando ci sono interessi economici le Agenzie Regionali dell'Ambiente diventano comprati dai soggetti dell'impresa. Ecco, questo senza di questo come si fa a decidere? Perché i dati chi li dà? È chiaro. Di Bello, a questa domanda immagino che lei abbia una risposta. Insomma, sì, io credo che la prima cosa che bisogna stia attento fare... però perché insomma quello che dice. Cosa che credo che vada anche nella direzione come si dice delle finalità e degli obiettivi della vostra radio. La prima cosa che bisognerebbe fare è sottrarre alla politica la gestione dell'ARPAB, libertà assoluta di scelta secondo scienza, coscienza e competenza delle direzioni. In realtà l'ARPAB di Basilicata ha un personale per l'80% amministrativo e per solo il 20% tecnico, peraltro manco preparato. Questo è interessante come proposta, cioè toglierla dal controllo della politica, ti pare possibile, Oscar? Pare che organi dovrebbero avere delle competenze tecnico-scientifiche. Sì, sono abbastanza d'accordo con l'idea che i criteri di nomina debbano essere indipendenti dalla politica, debbono essere terzi, debbono corrispondere a delle maggioranze che sono più ampie della maggioranza semplice politica di governo, ma devono essere rafforzate, cioè perché sulla base di quei dati si può decidere cosa si fa o non si fa. Ma anche perché i dati sono dati, cioè non è possibile che ci siano dati così discordanti, no? Esatto. Perché noi di Bello perché dovremmo credere ai suoi e non a quegli altri? Cioè, appunto, capisce che è incredibile questo. Esatto. Bene, invece quando la cosa è stata determinata da una selezione di carattere pubblico che non ha nulla a che vedere con la politica, verosimilmente, probabilmente avremmo l'eccellenza al posto giusto. Certo, questo è quello sì. che dico io. No, ma infatti, tra l'altro, in Norvegia estraggono, però poi lo smaltimento avviene secondo regola d'arte. E non ci sono l'avvelenamento delle falde, dei terreni, anche perché io mi sento addosso lo scrupolo di dare acque non buone alla Puglia, alla Campania. E poi tra l'altro noi produciamo anche prodotti della terra, e chi lo dice a voi che i pomodori che state mangiando non sono arrivati pure da aree? Allora io intanto ringrazio Di Bello che ha detto una cosa grazie, che a chi è filo estrazione, per me lui ricorda che la Norvegia, che estrae in acqua, in mare eccetera, e ai vertici delle graduatorie mondiali ambientali, quindi rispetta tantissimo l'ambiente e non sacrifica fonti fossili nazionali. Esatto. Cioè si può fare. Non ci si mette in mano a delle genghe, ecco, detta fuori dai denti. Comunque, Giuseppe Di Bello, tenente Giuseppe Di Bello, la ringraziamo, insomma, in bocca al lupo, insomma, per una battaglia Ma soprattutto poi perché continua. Una battaglia civile che lei fa. Poi ognuno può essere d'accordo o contro, però mette se stesso e la propria figura ha sacrificato gran parte della sua vita professionale per questa. E anche i suoi dindini poi, visto che paga con quello. Guarda che ci chiama Roberto da Roma. Roberto, buongiorno. Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno, volevo intervenire brevemente sulla Panama Papers. I soldi a Panama, lei ha i soldi a Panama. Attento che Zanetti. Magari avessi questa possibilità. Anche a me ieri l'hanno detto, che ne pensi di questo problema di Panama? E io ho detto, il problema è che io non ho i soldi a Panama, questo è un grande problema. Penso che la quasi totalità degli italiani, conoscendo come funziona la tassazione in Italia e quali sono, diciamo, i furti che avvengono a livello, tra virgolette, legale in Italia, se avessero la possibilità di portare i soldi all'estero e nasconderli al fisco in italiano lo farebbero più che volentieri. Il problema è il fisco, secondo me. Se noi cerchiamo di curare il mal di testa causato da un tumore con l'aspirina, è chiaro che non ne veniamo a capo. Qui si cerca di andare a prendere e a ammazzare coloro che hanno portato i soldi all'estero senza curare quello che è il motivo per cui l'hanno fatto. E per cui chiunque lo farebbe se potesse. Abbassiamo le tasse che tra imposte dirette, indirette, bollini e bollori vari ci fregano. Roberto ci regala una pera di saggezza, perché la campagna dei Panama Papers eccetera eccetera è pubblicità a difesa dello Stato ladro. Questo è il punto vero. E lo so che mi prudono un po' le mani. Non ti convinci, perché tu pensi lo Stato sarà ladro, ma bisogna piegarsi. Non bisogna piegarsi. Il grande ladro è lui. In Italia poi figuriamoci. Comunque ci propone il lato oscuro degli accertamenti. Comunque la metti, c'è una diseguaglianza, una iniquità. Certo. Perché quello che può andare a Panama è capace di andare a Panama, sì. E gli altri soffessi, quelli invece che si vengono tartassati. Io difendo il fatto che l'ascoltatore ha detto che chiunque potesse andrebbe a Panama. Questa è una considerazione antropologica, ma dice il problema fondamentale restano gli ordinamenti a cui siamo sottoposti. Invece da queste campagne propalate da gente che la pensa in un certo modo, cioè vuole che lo Stato sia proprio di quote ancora più crescenti del nostro reddito, perché questo è il retroscena di questa rete di giornalisti, allora noi lì dobbiamo dire no, allora viva lo Stato e diamole più allo Stato. Almeno mi convince, ti dico la verità. C'è un ascoltatore che ci dice: mi fate fare tardi al lavoro e avvertite che cominciate alle 8:40. Cosa vuol dire? Ma caro ascoltatore, ma tu arriva tardi e digli che adesso devi dirlo. Ma no, ma sì, c'è ancora tra un attimo, dopo la pubblicità, Filippo Taddei, dobbiamo parlare con lui, sono tanti temi, arriva tardi, sì. si può fare. C'è una giustifica oggi, caro ascoltatore. C'è una giustifica. Il Cardinal Giannino. No, beh, la mia firma non vale niente, ma firma il Cardinal Giannino. Firma il Cardinal Giannino. Ti sanzionano di corsa. State con noi, 3 minuti di pubblicità e ritorniamo. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Eccoci Oscar. Eccoci qua. Sono le 8:41 minuti. Ma tu hai soldi a Panama? Pensa che in questi minuti abbiamo perso dei centesimi del nostro reddito grazie all'Agenzia delle Entrate. Tu non io quando mi sveglio la mattina, durante la notte mi faccio il conto. Mamma quanto ho pagato mentre dormivo all'Agenzia delle Entrate. Anche mentre dormi paghi. Certo, in cambio che cosa mi dà? L'ATAC, l'AMA, mi dà dei carrozzoni. Ti fa dormire. In deficit, mi chiede altri soldi, mi succhia il sangue mentre dormo. Pensate che sonno sereno che però sono motivato la mattina a contestare. Ah esatto, ti svegli carico per questo, perché pensi a quanto queste 6 ore, certo, 5 ore. Tu credi che si interrompa il deflusso dal tuo reddito? No, invece carità, non si interrompe mai. Non lo so, chiediamolo al professor Filippo Taddei, responsabile economico del PD. Buongiorno, non so se ha una risposta su quanto vale il sonno di Oscar Cittadino. Vale poco. Il criterio della tassazione è che si tassa il reddito prodotto. O Giannino è un fenomeno che riesce a produrre reddito anche quando dorme, oppure almeno quando dorme non dovrebbero tassare. Dobbiamo indagare. Senta Taddei, noi l'abbiamo chiamato per questa questione delle pensioni, ma una cosa sui Panama Papers anche lei non ce la vuole dire? Cioè passeranno ore tribolate, come dice il sottosegretario Zanetti, questi italiani? Guardi, questa cosa dei Panama Papers, permettetemi, è proprio il segreto di Pulcinella. Cioè, noi siamo, perché abbiamo questa scissione strana nel dibattito pubblico, no? Noi siamo il paese che ha fatto la voluntary disclosure e che ricordo a tutti gli italiani che il motivo per cui è stata fatta è perché ci sono stati conti di italiani che sono stati illecitamente stabiliti all'estero, su proventi. E in base a quello il governo italiano ha detto: guardate, non facciamo un condono, vi chiediamo di pagare le tasse, di rinunciare all'anonimato, cioè voi dite chi siete, sarà sempre chiaro che voi avete un conto all'estero, pagate le tasse, vi facciamo uno sconto sulla sanzione e però la finiamo così. Ora arrivano i Panama Papers, che è un grande scandalo internazionale, ma in realtà, voglio dire, sapevamo tutti che c'era questa procedura. Il punto era, come lo sapevamo tutti, se cominciamo a combattere questa evasione oppure no. E mi permetto di dire che magari con un briciolo di lungimiranza magari il governo italiano su questo si era già mosso, anche perché vi faccio presente proprio di oggi o di ieri la notizia è stato tutto il consolidamento dei dati che riguardano i conti correnti degli italiani, no? Che per la prima volta sono accessibili in tempo reale. Questa è una stupidaggine che magari non tutti sanno, però fino all'anno scorso l'Agenzia delle Entrate aveva al massimo il saldo di fine anno dell'anno precedente. Ora immaginiamoci un attimo per capire come si può fare un accertamento veloce se il meglio che hai sono i dati bancari di non prima di 12 mesi fa. Ora capite che non si può dire noi vogliamo abbassare le tasse facendo pagare le tasse a tutti, però abbassando le tasse, quando poi non hai nemmeno i dati aggiornati. I dati aggiornati dei conti. Quindi va tutto bene, dai. Va tutto bene, vabbè, questi Panama Papers, chissà se saranno tribolati o no, però noi l'abbiamo chiamata per la questione delle pensioni. Ma allora, è allo studio o no del governo questa proposta Boeri di tagliare le pensioni più alte? Oppure no. Boeri che alimenta incessantemente, perché ogni settimana oramai, esatto. Tito noi gli vogliamo bene, perché io Tito voglio bene, però certo, ogni settimana se ne esce con la proposta di dire contributo di solidarietà per prepensionare. Inizio a pensare persino io che voglia, cioè, che sia un fine politico, perché di qualunque tipo io non lo contesto, però mi piace chiedere al professor Taddei come la pensa lui, perché ogni settimana oramai è troppo ripetitivo per non porre il problema. Ma intanto è allo studio o no? Ci ha detto no. Guardate, innanzitutto siamo ai fatti. I fatti sono: il Presidente del Consiglio si è impegnato a fare un intervento sulla flessibilità in uscita, che è un intervento però comprensivo sulle pensioni in quest'anno nel 2016. Punto numero due, il presidente Boeri è il presidente dell'INPS, non ha un fine politico, però naturalmente essendo un esperto contribuisce a un dibattito pubblico, contribuisce con, in realtà più che con proposte, in questo momento sta contribuendo dando dei dati anche questi innoti, però è importante ricordargli, è importante ricordare agli italiani che ci sono tante persone che percepiscono la pensione da un numero di anni che è 500.000 persone che prendono da 36 anni la pensione. Perfetto. È una cosa spropositata. Guardate bene, non sono pensioni di invalidità, questo deve essere chiaro. Non sono persone che sono perché a un invalido, figurati, gliela puoi dare anche certo, 60 certo. anni. No, no, pensione. Sono persone di anzianità. Sono persone di anzianità, esattamente. Quindi sono, e quindi ricorda questi dati. E perché lo ricorda? Perché è importante ricordarlo? Perché vedete, alla fine, siccome per quelli come me che si occupano esattamente di fare, di contribuire al lavoro che c'è per arrivare effettivamente alla proposta per come garantire la flessibilità nella età della pensione senza scardinare l'impianto della riforma Fornero, cioè senza gravare sulle prossime generazioni, che in italiano vuol dire senza aumentare, ma anzi provando a diminuire ancora il debito pensionistico italiano. Questa è la sfida. Siccome per me importa, siccome io so che alla fine siamo tutti pensionati, quelli che sono pensionati oggi, quelli che ci andranno tra un anno e quelli come me che ci andranno tra 25 anni o quelli che magari più giovani di me che ci andranno tra 40 anni, siccome io il mio obiettivo è pensare se è possibile offrire flessibilità oggi senza in alcun modo, anzi portando una riduzione della spesa pensionistica in futuro. Ma sulla proposta Boeri, cioè prendere un po' di soldi alle pensioni più alte? Guardi, posso dire che questa risposta, questo modo di gestire il dibattito sulle pensioni non solo è sbagliato, ma è dannoso, che è peggio che sbagliato. È dannoso perché noi adesso, l'intervento sulle pensioni non è uno spezzatino, non è servizio a tavola, non è un self-service in cui dice facciamo un po' questo intervento qua, poi dopo diamo là. Io devo darvi, il mio compito è darvi una proposta di intervento che garantisca i due obiettivi, flessibilità e riduzione della spesa pensionistica. Nell'anno in cui, ricordo a tutti, la spesa pensionistica raggiunge il suo picco assoluto in termini di percentuale del PIL. Cioè questo, da quest'anno in avanti la spesa pensionistica italiana comincia a calare. Quindi io le dico, noi, se io capisco perfettamente il vostro lavoro, capisco perfettamente che ci sia attesa nel paese, ma l'errore più grande che la politica può fare in questo paese, in questo momento, è dire allora guardate, facciamo un intervento qui, poi dopo magari però, diamo siccome io condivido quello che dice Taddei, la cosa che mi chiedo è, da una parte Tito Boeri sa perfettamente che lui in realtà ogni settimana torna sul dire prepensionamenti, prepensionamenti, prepensionamenti. Tito Boeri scriveva contro l'idea, fino a due anni fa, contro l'idea che prepensionare gli anziani servisse a dar lavoro ai giovani. È verissimo. Perché lo scriveva sulla voce.info. Adesso ha cambiato idea, ma lui, ripetendolo ogni settimana, in realtà dà una mano a chi in Parlamento c'è, e c'è anche nel suo partito, seppur minoritari, vogliono abbassare l'età pensionabile, vogliono la flessibilità, ma dicono non ci rompete le palle, però con l'idea che non bisogna farlo con più deficit aggiuntivo, è detta un po' fuori dai denti, non lo dicono così. Mentre invece io apprezzo che Taddei dica noi dobbiamo tentare la flessibilità senza alzare il deficit. A me pare però che Tito Boeri ogni settimana stia dando una mano più a coloro che dicono no ragazzi, noi dobbiamo rifare i prepensionamenti, e se non ci vogliono far prendere i soldi dalla tasca delle pensioni più elevate, beh allora però non ce li faranno fare in deficit. Ecco, questo è quello che temo io. Fatto numero uno, siccome è tutto vero quanto ricordava il Cardinal Giannino, che spero offra una giustifica anche a me dopo, perché sono in ritardo su tutte le cose della mia vita, ma fatto numero uno, in tutti i paesi del mondo dove c'è più occupazione per gli over 55, c'è anche più occupazione per gli under 30. Esatto. Fatto numero due, c'è un'unica eccezione a tutti i paesi del mondo, che è l'Italia durante la crisi. Durante la crisi, ed è il motivo per cui colleghi come Tito Boeri, come Tommaso Nannicini, scrivevano quella che in economia del lavoro si chiama una fallacia, cioè la fallacia del numero fisso di posti di lavoro. Perché ci si collegava al comportamento tipico dell'economia, in cui più anziani lavoravano, più giovani lavoravano. Ma in Italia nella crisi questo non è più successo. È successo cioè che l'occupazione degli over 55 è cresciuta. Guardate, per me è un fatto positivo. Cioè, uno dei problemi dell'Italia era la bassa percentuale di italiani sopra i 50 anni che lavoravano nel confronto agli altri paesi. Però quel fatto positivo deve essere accompagnato anche al fatto che crescano gli occupati giovani. E se questo non succedono le due cose insieme, allora è un problema. In conseguenza del fatto che è cambiato qualcosa di strutturale, fondamentale, diverso rispetto al passato, nell'economia italiana, allora ci poniamo un problema adesso. Problema adesso, attenzione, di non abbassare l'età di pensionamento, ma di introdurre un'età di pensionamento che sia flessibile, cioè le persone possono andare, esercitare la propria libertà, andare in pensione qualche anno prima, questo è l'obiettivo. Però ci devono rimettere una cifra tale per cui non ci rimetta. Esatto. Perché la libertà si accompagna alla responsabilità, se no parliamo di cioccolata. Adesso io vi faccio un esempio, perché ho avuto so, il privilegio, la sfortuna, il fatto nella mia vita di essere contribuente in due paesi diversi. Sono stato contribuente in America e sono stato contribuente in Italia. In America ogni anno, siccome sono stato contribuente lì 6-7 anni, ricevo ogni anno dalla Social Security Administration, cioè l'INPS americana, una bellissima, quello che è la nostra busta arancione, quello che il governo ha fatto quest'anno, in America esiste da 25 anni, e ti dicono a 20 anni, 25, 27 anni, qual è la tua pensione attesa. Paese civile. Attenzione però, in quel paese ti dicono, tu la pensione, tu prendi questa pensione se vai in pensione all'età di 67 anni, che è la pensione. Se vai prima, per ogni anno di paese civile. Aspettate, paese civile, perché questo è il dato. Per ogni anno che vai prima in pensione, sapete qual è la penalizzazione in America? Di quanto parliamo? Tra il 7 e l'8%. Paese civilissimo. Allora attenzione, io vi voglio dire, io non sto dicendo che questo è come funziona negli Stati Uniti. Vi sto forse dicendo che il governo italiano intende una penalizzazione di quella cosa. No, però io vorrei capire questo, Taddei. No, è chiaro. Certo. La proposta Boeri non è allo studio. Questo, insomma, si è capito bene. Anche dal fastidio con cui Poletti ogni volta non lo dice, ma si vede in faccia. Che esatto. Dice, caro Tito, ma perché? Per fare un po' il cattivello, non è allo studio anche perché toccare le pensioni si toccano voti? Guardi, si toccano voti. Perché io l'ho detto un'altra cosa, mi scusi, io non l'ho detto che non è allo studio, io l'ho detto che è allo studio qualcosa di più ambizioso con un contributo sulle pensioni date. Io l'ho detto che è allo studio un intervento sotto il sistema pensionistico che ne garantisca. E vabbè, certo, questo è un intervento generale. Che però non alza il debito, uno. Seconda cosa, io ho detto, guardi che anche non fare nulla è intervenire sulle pensioni, perché io so perfettamente che se non intervengo oggi, io sto dicendo alla mia generazione, la generazione che vengo, io la busta arancione mia l'ho già vista, non solamente quella americana, ho visto già la mia. Il mio tasso di sostituzione è lordo, che è leggermente fuorviante, è il 54% atteso. Ovvio, io faccio 40 anni quest'anno, un sacco di cose possono succedere nella mia vita. Però capite che io so che se non faccio nulla non mi sto occupando delle future generazioni, quindi non mi occupo delle pensioni. Quindi io qualcosa, noi stiamo lavorando, però permettetemi, da qui in avanti dal PD voi sentirete una sola cosa: silenzio fino a quando arriva non la proposta vera. Però l'impegno a fare l'intervento che è del Presidente del Consiglio entro la legge di stabilità dell'anno prossimo c'è e resta, e quindi aspetteremo fino ad allora silenzio. Va bene Taddei, ci dobbiamo fermare qui. C'è Osvaldo che ci chiama da Padova sul tema pensioni, intanto la ringraziamo Filippo Taddei. Osvaldo, che vuol dire? Lei è pensionato? Non è pensionato? No, io ho 62 anni e mantengo ancora mia figlia, quindi il contributo ai giovani credo di darlo già adesso, perché poveretta è senza lavoro. Seconda questione, quello che mi seccherebbe è che cosa farà il governo con il nostro contributo ai giovani. Farà le solite cooperative che faranno la cresta su quello che daranno i ragazzi e che sono in mano a persone che abbiamo già visto a Roma che cosa fanno questi della cooperativa, che personaggi sono, eccetera. Per questo sono seccatissimo su un'idea del seccatissimo. Preferisco dare io di persona a mia figlia. Ah, dice che fa un contributo ad personam. Beh, insomma, da padre a figlia, però è facile, diciamo, anche fare un contributo e farlo con generosità e con il cuore, no? Sì, questo non c'è dubbio. Anzi, siamo tutti preoccupati per i nostri figli, tu e io per primi. Detto questo, siccome la propensione degli italiani è farne sempre meno di figli, non si può risolvere entro il circuito familiare, sì, esatto, come è evidente. Esatto. Comunque, caro Oscar, ci dobbiamo fermare qui anche per oggi. Abbiamo dato in questa ora dei soldi all'Agenzia delle Entrate. È così, ragazzi. Ma tu non ce l'hai questo tarro? Io ce l'ho permanente. Voglio dire, ma perché vivo male? Perché il problema è che, siccome io sono un autonomo, se il cliente non mi paga, ma lo Stato non frega niente, perché lui i soldi intanto li vuole a scadenza. Hai capito? È asimmetrica, è una vita infernale. Ma è anche il calcolo in questi 40 minuti, quanto hai dato? Purtroppo abbastanza, poi te lo dico abbastanza, al caffè me lo dici. Va bene, dai, a domani, ciao.